Che farem del povero giorno? Sono verse messa da Dalmazia de Abandonine ma sarga Io mazzia te, io mazzia te, io mazzia te.